24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Oggi in primo piano la battaglia finale a Tripoli, mentre giallo sulle sorti del Rais, la comunità internazionale fa gara nel riconoscere il Consiglio nazionale di transizione. E oggi pomeriggio a Bruxelles, riunione straordinaria degli ambasciatori dei 27 paesi UE che compongono il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione. Al centro dell'incontro il punto sulla situazione in Libia e le iniziative da prendere nella prospettiva di garantire la sicurezza nel paese. E grazie all'effetto Libia, chiusura positiva per le borse europee, con l'eccezione di Francoforte. Parleremo in questa edizione anche di Dominique Strauss Kahn, che sta per godersi la sua rivincita, che molti francesi pensano possa rientrare in politica. Anche il caldo oggi fa notizia in tutta Europa. Poi lo sport con la Vuelta di Spagna. Bentrovati da Roberta Pellegatta a un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura, come si diceva, la battaglia di Tripoli. Nella zona vicina al bunker di Gheddafi, i sostenitori del Rais sono impegnati in una strenua resistenza. Al momento c'è grande incertezza sulla sorte di Gheddafi e gli stessi ribelli hanno ammesso di non sapere dove si trovi il Rais. Il portavoce del Pentagono, il colonnello David Lapan, ha detto che Gheddafi si trova ancora in Libia. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha annunciato che convocherà un summit questa settimana sulla situazione nel paese africano e saranno invitati i rappresentanti dell'Unione Africana e della Lega Araba. E intanto la comunità internazionale lavora al dopo Gheddafi. Cade la Tripoli del Rais, risorge la Tripoli dei ribelli. In queste ore il compound di Muammar Gheddafi è accerchiato. Lì centinaia di uomini del colonnello si oppongono all'avanzata degli insorti a colpi di mortaio e carro armato. E intanto la politica si muove. Mentre la comunità internazionale fa a gara nel riconoscere il Consiglio nazionale transitorio, mentre la Francia, da sempre alfiere dell'azione contro la Libia, ha già convocato il gruppo di contatto per la settimana prossima a Parigi, l'Unione Europea avverte che per ora le sanzioni contro la Libia rimarranno in vigore, ma sono revocabili in ogni momento. Domani pomeriggio a Bruxelles è prevista una riunione straordinaria del Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione Europea per definire la situazione. La NATO, dal canto suo, ha fatto sapere che le operazioni militari proseguiranno finché tutti i lealisti non si saranno arresi. Ma intanto il Consiglio nazionale dovrà dare prova di maturità. Le spaccature al suo interno, quelle dinamiche tribali finora assopite in vista della vittoria finale, potrebbero riemergere anche violentemente. Il Consiglio è acefalo dopo l'assassinio a causa della faida interna del generale Yunis a Bengasi a fine luglio. E ora? Quanto sarà in grado il Consiglio nazionale di evitare vendette sui fedeli di Gheddafi a Tripoli e a Sirte? Sarebbe rischiosissimo scivolare nelle faide attraverso cui si spalancherebbe lo spettro di una situazione simile all'Iraq, con guerriglia e terrorismo. Uno spettro che nessuno vuole. Gianpaolo Musumeci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Silvio Berlusconi si unisce alla comunità internazionale nel chiedere che Gheddafi lasci il potere. Il premier parla in una nota anche dei ribelli del Consiglio nazionale transitorio, dicendo che il governo italiano è al loro fianco. La possibile soluzione della crisi libica ha aiutato, dopo una settimana di pesanti ribassi, le principali borse europee, che hanno chiuso in rialzo seppur lontane dai massimi di giornata. Parigi è salita dell'1,14%, Londra ha guadagnato l'1,08%, mentre Francoforte, debole, ha chiuso negativa a meno 0,11%. Meglio ha fatto la borsa di Milano. Piazza Affari nel segno dell'effetto Libia. La possibile stabilizzazione del paese nordafricano è stato il tema di giornata per il listino azionario milanese, che ha chiuso con un rialzo dell'1,84% sul FTSE All Share e dell'1,78% sul FTSE MIB. In prima fila i titoli che più beneficeranno della fine della crisi libica. L'ENI è salita così del 6,33%. Il presidente Giuseppe Recchi ha ricordato che prima dello stop dovuto alla guerra, la Libia rappresentava il 13% del fatturato del gruppo. Brillante anche Ansaldo STS, più 5%, che può contare su importanti commesse nel paese nordafricano. È rimasto invece sotto pressione il settore auto, colpito dai timori sulla tenuta della ripresa economica mondiale. Fiat ha perso il 2,32% e Pirelli il 2,49%. Paolo Paronetto da Radio Corpo per Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è anche quella dei migranti tra le incognite del dopo Gheddafi. Siamo preoccupati, ha detto il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, per il fatto che l'attuale instabilità possa portare i cittadini non libici, soprattutto subsahariani, finora sfruttati dal regime di Gheddafi, a fuggire e a tentare di raggiungere l'Europa. Intanto una nave noleggiata dall'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è sulla rotta per Tripoli per evacuare 300 immigrati dalla capitale libica. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni lo ha ribadito nella tradizione ieri conferenza stampa di Ferragosto: se non si ferma la guerra in Libia non potremo tenere sotto controllo gli sbarchi. I leader del Consiglio Nazionale di Transizione hanno assicurato collaborazione nel contrasto alle partenze dei barconi di disperati verso l'Italia, ma in questa concitata fase che sta portando alla caduta del Rais non ci sono certezze riguardo al destino delle centinaia di migliaia di migranti africani che lavoravano in Libia prima della rivolta. Mantica ha spiegato che il primo dovere dell'Italia sarà quello di aggiornare la parte che riguarda i flussi migratori del trattato di amicizia italo-libico non appena la situazione nel paese si sarà stabilizzata. E adesso parliamo di caldo. Emergenza in quasi tutta Italia, con le temperature che si aggirano tra i 35 e i 40 gradi, ma l'AFA attanaglia una gran fetta d'Europa. Proprio quando gli italiani cominciavano a rientrare dalle vacanze, dopo un luglio sorprendentemente fresco, il gran caldo ha deciso finalmente di colpire. Ma anche per tanti turisti europei di ritorno nei loro paesi, la situazione potrebbe non essere migliore. L'anticiclone africano che sta provocando l'AFA abbraccia infatti tutto il sud dell'Europa. Dal bacino del Mediterraneo tocca la penisola iberica, fino ai Balcani e gran parte dell'Europa centro-orientale. E non sembra intenzionato a muoversi almeno fino a sabato, il che porterà ancora temperature come i 43 gradi registrati sabato a Siviglia, i 39 di Tolosa o i 38 di Tirana. Chi cerca sollievo dall'AFA dovrebbe quindi programmare un viaggio in Europa settentrionale. Le perturbazioni in arrivo dall'Atlantico fluttuano infatti al di sopra della zona di alta pressione. Una di queste si estende attualmente dal Golfo di Biscaglia al sud della Scandinavia ed è la stessa che nel weekend ha sorpreso migliaia di pellegrini a Madrid per la Giornata Mondiale della Gioventù. Durante la veglia il forte temporale aveva sorpreso anche il Papa, costringendolo a interrompere l'omelia. Il Signore con la pioggia ci manda tante benedizioni, aveva commentato Serafico Benedetto XVI. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La ricerca italiana è in fondo alla classifica internazionale. Pochi ricercatori, poche pubblicazioni, poche scoperte. Lo sconfortante quadro arriva da uno studio italo-olandese a firma di Cinzia Daraio dell'Università di Bologna e di Henk Mudd dell'Università di Leiden nei Paesi Bassi. Per la prima volta in 30 anni la produzione scientifica dell'Italia smette di crescere. Non solo, ma presenta segnali di arretramento. In parallelo è cresciuta la concorrenza dei paesi emergenti come India, Brasile e Cina. Come uscire dall'emergenza? Sentiamoci Cinzia Daraio al microfono di Paolo Panceri. Negli ultimi 30 anni non è stato fatto nessun tipo di investimento e nessun tipo di programmazione sulla ricerca, quindi bisognerebbe sicuramente aumentare gli investimenti, il numero di ricercatori in un contesto di regole che appunto premino il merito e la produttività scientifica. Non c'è consapevolezza anche proprio a livello politico istituzionale dell'importanza della ricerca. Molti ne parlano, ma di fatto nessuno fa nulla. La cosa allarmante è che appunto, mancando una pianificazione, mancando gli investimenti, la ricerca è abbandonata alla, diciamo, creatività, agli sforzi individuali dei ricercatori che lo fanno non perché sono in un sistema che appunto con degli incentivi premia la produttività, lo fanno perché a loro piace far quello, lo fanno per il loro prestigio individuale. Come abbiamo fatto vedere, il numero di pubblicazioni, la quota mondiale di produzione della ricerca, la Cina ci ha già superato da un po'. Per ora, in termini di citazioni di qualità, non ci ha raggiunto, ma è questione di poco, di anni. Tanti cittadini europei nei prossimi mesi potrebbero chiedere che venga inserito nella Carta Europea dei Diritti Fondamentali il riconoscimento del concepimento come inizio del diritto alla vita. Lo ha annunciato il presidente del Movimento per la Vita Carlo Casini, intervenuto al meeting di Rimini. Questa iniziativa, ha osservato, è resa possibile dal Trattato di Lisbona, che prevede a partire dal 1 aprile 2012 che almeno 1 milione di cittadini europei possa chiedere alla Commissione Europea un atto giuridico. In chiusura, una notizia di ciclismo: vittoria di tappa in maglia di leader per Pablo Lastras della Movistar alla Vuelta. Il corridore spagnolo si è aggiudicato la terza frazione della corsa spagnola e strappa così la maglia rossa a Daniele Bennati. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.